Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Pane, latte, verdura, un consulto dall'avvocato e una seduta dallo psicologo. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, scopriremo com'è cambiato il carrello della spesa al supermercato, sempre più ricco di nuovi servizi. Parliamo poi del lato buono del packaging e, per il focus sui trend, di anti-style, quando l'essere controcorrente fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità della settimana. Sbarca in Italia il SUP, nuovo sport da spiaggia in voga alle Hawaii e in California. Su una tavola simile a quella da surf si pagaia controcorrente, in piedi come improbabili gondolieri. In Polinesia il SUP, che ha una tradizione millenaria, è quasi uno sport nazionale, praticato anche da bambini e anziani. Trasformare le piattaforme petrolifere in disuso in esclusivi eco-resort galleggianti. L'idea è di uno studio di architettura di Houston. Solo nel Golfo del Messico, spiegano gli architetti, ce ne sono almeno 4.000. Nascerebbe una sorta di Dubai vicina alle coste americane. Dopo la settimana della moda e quella del mobile, approda a Milano la settimana del cibo. Degustazioni, corsi di cucina, gare di pasticceria, conferenze e temporary restaurant hanno animato vari eventi in una sorta di percorso gastronomico cittadino. Pausa pranzo sempre più salata nelle grandi città come Roma, Napoli e Milano. Secondo l'osservatorio prezzi del Centro per i diritti del cittadino, tra panini, tramezzini, pizza, insalata e bibite, si spendono mediamente 184 euro al mese. Sandali rasoterra, capresi, tronchetti e super zeppe. Questa sarà l'estate del tacco matto. Dai coturni ultrapiatti ai trampoli scultura, le scarpe femminili oscillano in altezza da un estremo all'altro. La borsa della spesa. Non solo farmaci e benzina, in tempo di crisi dei consumi le grandi catene di supermercati allargano il ventaglio della propria offerta, includendo i servizi alla persona. Dal consulto legale a quello fiscale, dalla seduta dallo psicologo fino alla visita medica specialistica, per non parlare dei trattamenti di bellezza, sauna, massaggi, solarium, oppure la prenotazione di un viaggio, di interventi di elettricisti, idraulici, fabbri, muratori, tecnici, informatici. Insomma, un carrello della spesa che solo fino a poco tempo fa era impensabile. Tra le insegne più attive Ipercoop, che ad esempio a Firenze propone l'avvocato, a Milano lo psicologo. Estenderemo il servizio a molti altri punti vendita, ci dice Walter Molinaro, responsabile marketing sociale di Coop Lombardia. L'esperienza va bene perché il servizio non si propone come risolutore dei problemi psicologici e di rapporto tra le persone, ma è un accompagnamento alla soluzione dei problemi, cercando di individuare nel territorio quali soluzioni sono possibili di supporto alla famiglia o alla persona che si rivolge al nostro servizio. È gratuito e si svolge in un'area riservata dei nostri uffici soci. Noi abbiamo da tempo, da alcuni anni, avviato una rete vera e propria di servizi che fanno capo ai nostri punti vendita. L'idea di fondo è quella che un punto vendita, un luogo di incontro come un supermercato o un centro commerciale, possono diventare luoghi anche di soluzione o di possibile soluzione di diverse problematiche individuali. E allo Shan di Mestre è stato aperto in fase sperimentale il primo centro benessere. Francesco Alfieri, direttore vendite del gruppo. È un centro dove il cliente può, recandosi all'ipermercato, usufruire di una serie di servizi di estetica piuttosto che di benessere a prezzi decisamente interessanti rispetto agli specialisti, con del personale specializzato e qualificato. La nostra azienda sono un po' di anni che sperimenta nuove piste di commercio sia materiale che immateriale. Il nostro principio è tutto sotto lo stesso tetto, che vuol dire riuscire a dare al cliente la maggior scelta possibile di prodotti alimentari e non alimentari. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato il pagamento delle utenze, che vuol dire che un cliente può pagare direttamente in ipermercato le proprie bollette, piuttosto che acquistare biglietti per eventi sportivi e culturali, nonché fare assicurazioni e acquistare l'energia, piuttosto che fare un contratto di telefonia mobile. Quindi direi che il centro estetico è la continuazione di un processo iniziato da qualche anno che mira ad allargare l'offerta dal prodotto fisico al prodotto anche immateriale. Il centro servizi, insomma, sta diventando il cuore della strategia di completamento dell'offerta della grande distribuzione. Ne abbiamo chiesto le ragioni a Sandro Castaldo, direttore area marketing della SDA Bocconi. Un boom nell'offerta dei servizi, poi bisogna vedere con attenzione anche quelli che sono i risultati, perché non tutti hanno risultati eccezionali da un punto di vista sia di vendita che di profittabilità, ma comunque in termini di offerta in questo momento c'è effettivamente uno sviluppo notevole da parte della grande distribuzione per sfruttare quello che viene chiamato tecnicamente one stop shopping, cioè il cliente va nel punto di vendita e sotto un unico tetto può acquistare servizi, prodotti, beni largo consumo, beni durevoli, assistenze e via dicendo. Abbiamo visto che questa tendenza è una tendenza che caratterizza ormai tutti i comparti, soprattutto tutti i paesi, soprattutto quelli più sviluppati da un punto di vista distributivo. Non a caso si è molto sviluppato in Inghilterra, anche in Francia, anche in Germania. Ma esiste il rischio di qualche effetto negativo di questo boom? Ancora Castaldo. Ma io direi che il rischio negativo c'è soprattutto, più che per il consumatore, per le imprese della distribuzione che offrono questi servizi, in quanto è chiaro che se un servizio non ha successo, se un servizio non è offerto con il dovuto livello di qualità e proprio di integrità da un punto di vista qualitativo, si rischia un effetto boomerang sulla immagine dell'insegna nel suo complesso. Quindi le aziende della distribuzione, prima di decidere di scendere in campo su servizi di questo tipo, devono essere molto attente, devono fare molto attenzione alla qualità del delivery, alla qualità dell'offerta. Cambiamo argomento, parliamo di packaging, lo facciamo con una voce fuori dal coro, quella del direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Sui giornali, nei media, le mode avanzano impetuose, alcune volte scompaiono con altrettanta velocità con cui nascono. Prendiamo il caso delle vendite di prodotto sfuso, quelli senza packaging. È tutto un proliferare di quasi leggende, pochi casi precisi e volumi di vendite mai narrati fino in fondo. Il packaging, è bene dirlo, assolve due funzioni basilari. La prima, protegge il prodotto, magari fresco in tutta la filiera, dagli stabilimenti di produzione al supermercato, al frigorifero di chi li acquista. I prodotti cosiddetti non deperibili, forse, non hanno bisogno di più protezioni e non a caso sono venduti in ridotte quantità negli ipermercati Auchan, in qualche Ipercoop, nei supermercati SMAE Simpli e in quelli del CRAI, ma assorbono acquisti limitati, in genere di single che hanno bisogno di quantità ridotte e non trovano risposte adeguate dall'industria. La seconda esigenza a cui risponde il packaging è quella delle informazioni che devono sempre accompagnare e rispondere del prodotto che il consumatore acquista. Informazioni previste dalla legge obbligatorie e informazioni nutrizionali o di uso. Una ricerca di ProCarton, l'associazione che raggruppa i produttori di cartoncino alla base del packaging appunto, ha rivelato una serie di mancanze nel packaging stesso che andrebbero senz'altro risolte proprio partendo dalle necessità di sicurezza e di utilizzo da parte del consumatore. Pensiamo alle necessità degli ipovedenti che non riescono a distinguere bene i colori con determinate luci, oppure ancora le necessità di avere un pack veramente funzionale per le persone disabili, per non parlare poi dei mancini, cioè le persone che devono usare la mano sinistra per aprire un prodotto e si trovano a confrontarsi con un imballo progettato per chi usa la destra, oppure degli extracomunitari che si trovano ad affrontare nuove funzioni mai viste. Insomma, di packaging c'è davvero bisogno, ma che sia più segmentato e aderente ai bisogni basici del consumatore. Ultimo, ma non meno importante fattore, è la necessità di comunicare da parte del brand, della marca, oggi maggiormente importante nel momento di crisi che stiamo vivendo. Essere e avere. Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna, ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta questa seconda parte di Essere e Avere. Anti-style è il titolo della puntata di oggi, vogliamo cioè accendere i riflettori su tutti quei prodotti, servizi, campagne di comunicazione che si definiscono per opposizione, in antitesi a qualcos'altro, dalle anti-scarpe agli anti-social network, insomma, quando l'essere controcorrente fa tendenza, potremmo dire. Patrizia. Anti-style è appunto lo stile anti, contro, è darsi un'identità mediatica per differenza, diciamo dentro un panorama considerato indifferenziato di stili e tendenze in corso, creando una sorta di discontinuità per opposizione. Insomma, un po' il caso di Susan Boyle, l'anti-star di cui sta parlando tutto il mondo, è il porsi con una dose massiccia di anticonformità a quelle che sono le convenzioni, i codici, in questo caso dello showbiz musicale. Ma vediamo un po' perché Susan Boyle è stata definita ed è un anti-star, un'icona di antistile. Perché non è bellissima, non è rifatta, non ha i capelli tinti, non è acconciata, si veste da sola, si muove anche con questi movimenti grottescamente sexy. Insomma, questa donna di mezza età, scozzese, disoccupata, che è diventata una star al programma TV inglese Britain's Got Talent, l'analogo del nostro X Factor sulla scoperta dei talenti musicali, va detto che il suo pezzo è stato scaricato da aprile, perché parliamo di questi ultimi mesi, 220 milioni di volte. Quindi, per dire il fenomeno mediatico. In tema di icone di stile, visto che anche il 50° compleanno di Barbie, parliamo delle anti-Barbie, cioè le Bratz, prodotte dalla MGA, che hanno un giro di 500 milioni di dollari l'anno e che sono un caso di successo clamoroso che tutti conosciamo, ma che sono nate proprio come alter ego della intramontabile bambola bionda. Hanno giocato su questa loro identità per differenza rispetto a un prodotto di grandissimo successo, la bambola per antonomasia, hanno appunto trovato la loro chiave di successo. E c'è un fenomeno online che fa molto discutere, sono gli anti-social network. Ecco di cosa si tratta. Hatebook, enemy book, I fucking hate you. Bastano i nomi per capire lo spirito degli anti-social network. I siti che permettono di offendere online e che stanno conquistando la rete al pari dei cugini buoni, Facebook e MySpace, ai quali hanno copiato la formula declinandola in negativo. Gli amici sono le persone con cui si ha almeno un nemico in comune. I nemici sono gli utenti da detestare. L'odio in rete, dicono gli esperti, corre da tempo. Dai blog, forum e siti che prendono di mira personaggi pubblici, sfociando spesso nella diffamazione, alla novità del momento. Gli anti-social network, dove la socialità diventa asocialità e i fan diventano hater. Patrizia, un fenomeno preoccupante, c'è anche una deriva che può essere inquadrata sotto il profilo dell'incitamento all'odio, comunque un indice di malessere diffuso, sono siti questi, vogliamo ricordarlo, che contano migliaia di sottoscrizioni ogni giorno. La rete è un mondo fatto di persone e c'è tutto nel bene e nel male, quindi social network come Facebook o i siti di microblogging come Twitter hanno questa funzione soprattutto di rappresentazione relazionale del sé, e questa rappresentazione può esprimersi anche per opposizione, appunto nell'essere contro o anti qualcosa o qualcuno. Parlare contro, però, va sottolineato, rientra comunque sempre in quel parlare di sé, quella narratività esibitoria che è una delle caratteristiche più importanti dei social media, cioè parlando contro qualcuno parliamo comunque di noi. L'evoluzione in ogni caso di questo fenomeno va nella direzione opposta, quella più positiva, quella più legata alla kindness, alla responsabilità, alla colloquialità civile, insomma all'automoderazione. C'è stato infatti un grande cambiamento di codice e di comportamenti rispetto ai forum, alle chat di cui si accennava nella scheda. Infatti i primi anni 2000 erano costellati di questi continui round di insulti, veri e propri incendi, no? Si chiamavano flames in gergo, con addirittura una forte presenza di mediatori più o meno ufficiali, no? Che facevano ordine. Oggi l'automoderazione moderazione prevale appunto sulla moderazione guidata, e questo è un fenomeno che rimane appunto una deriva, un po' una nicchia. L'approccio anti che trovo più interessante in una scena sociale mediatica affollata di anti qualsiasi cosa è quello di Adbuster.net, questa fondazione rivista canadese di cui ho parlato spesso e che si pone come anti shopping, anti comunicazione, anti consumi, eccetera, ma contro tutto ciò che è inconsapevole. Quindi è importante questo aggettivo, poiché questo movimento assume che lo shopping, il consumismo siano azioni ormai inconsapevoli, cioè guidate da un immaginario in cui ormai siamo immersi, costruito da marketing, comunicazione intorno a merci e brand, che ci fa fare le cose, consumare in primis. Quindi, fatta la tara sulla loro dose di ideologia che comunque c'è, è un paradigma fondato su una posizione anti, ma con obiettivi, diciamo, educativi, emancipativi, e le relative azioni hanno questo piano etico molto esibito, ma anche molto fondato. E c'è un prodotto, un oggetto che fa del proprio essere contro i parametri comuni il proprio tratto distintivo, tanto che si autodefinisce l'antiscarpa. Stiamo parlando delle MBT, le scarpe dall'originale suola a gondola, ormai famosissime anche perché indossate da molte star, l'ultima in ordine di tempo paparazzata Antonio Banderas. Ne parliamo con Herbert Chrysler, General Manager Masai Italia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio a voi. Forse i nostri ascoltatori più fedeli lo ricorderanno, abbiamo già parlato delle MBT un anno fa circa, allora avevamo inquadrato la storia di questo prodotto sotto il profilo del marketing etnico, perché prevaleva il messaggio della scarpa dei Masai. Ora invece siete l'antiscarpa, vi siete in qualche modo riposizionati dal punto di vista della comunicazione, Herbert? No, non ci siamo riposizionati. Noi siamo sempre MBT, che sta per Masai Barefoot Technology. L'antiscarpa per noi è un'evoluzione del nostro prodotto che si distingue con la sua immagine dalle altre calzature. Ecco, quindi perché antiscarpa? In che cosa voi siete anti? Camminare scalzi su un terreno naturale è totalmente diverso da camminare con scarpe tradizionali su superfici dure e piatte. MBT, l'antiscarpa, riporta questa bellissima sensazione, questo piacere di camminare in maniera naturale anche in città. Quindi siamo anti-cemento, anti-superfici dure. Anti quindi non significa contro qualcosa. Anti sta per diverso. È un valido modo di sintetizzare l'enorme contenuto tecnico dell'MBT in una parola. Chi le prova sa di cosa sto parlando. Sul nostro sito www.antiscarpe.it può trovare una parte dei nostri riscontri, quindi gli anti-status dei nostri iscritti registrati, l'anti-contest con più di 4.000 disegni per le nuove antiscarpe MBT. Grazie a Herbert Chrysler per essere stato con noi. Grazie a voi e a risentirci. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Toronto su Antistyle e dintorni? Ce lo racconta come sempre una delle nostre esperte di Mimi, laboratorio di trend watching internazionale, Alessia Zampano, bentornata. Grazie, buongiorno. Sì, dicevi, siamo a Toronto perché qui c'è quello che viene definito un antiristorante, il Charlie's Burgers. L'identità del suo proprietario è ignota, così come le location delle sue cene evento. Dimentichiamo numeri di telefono, prenotazioni, perché per partecipare bisogna superare un percorso irto di ostacoli e di istruzioni segrete. Allora, prima di tutto bisogna compilare un questionario online sui propri gusti culinari e poi, se si è tra i 30 prescelti, che è il numero massimo di commensali ammessi ad ogni serata, si riceve via mail un invito a presentarsi a una data ora in un luogo pubblico con una donazione, gli organizzatori amano definirla così, di $110, e qui si troverà una busta con le indicazioni del posto dove si svolgerà la cena, che è un luogo solitamente defilato e non convenzionale. Una delle cene, ad esempio, si è svolta in un seminterrato che di giorno ospita una galleria d'arte underground, e non bisogna lasciarsi ingannare dal nome, che farebbe quasi pensare a un fast food, perché ha un aperitivo a base di gin tonic, segue un menù di 5 portate studiate nei minimi particolari e annaffiate da vini biodiversi biodinamici e organici di prima scelta. Una cena condita col mistero, potremmo definirla, dal sapore di una riunione clandestina, e in effetti l'idea è proprio quella di offrire ai convitati il gusto di partecipare a una performance sociale. Grazie Alessia. Patrizia, è una contraddizione parlare, è una contraddizione in termini, intendo parlare di anti-omologazione quando si parla di trend, di tendenze? No, non lo è assolutamente, c'è spazio per trend non convenzionali, per fenomeni che appunto ribaltano codici stili consolidati. La cosa interessante è vedere come uno stile che nasce come una nicchia, magari antitetico a qualcosa, possa invece evolvere in una tendenza che diventa mainstream e magari perde questo carattere iniziale di anticonformismo spinto rispetto a qualcosa che esiste già. Essere Avere finisce qui, resta solo il tempo per darvi appuntamento a domenica prossima dopo il GR delle 13, in replica, ve lo ricordo, il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.